Corso basico di Kabbalah. Prefazione. Nella nostra vita quotidiana incontriamo molte situazioni che in qualche modo controllano la nostra vita. Hanno la precedenza con la loro rozzezza, fatalità, e in un certo senso non c'è spazio per praticare il nostro libero arbitrio. Esse stanno bloccando le nostre azioni indipendenti e indipendenza. Evocano in noi rabbia e incomprensione e finalmente una profonda, eterna delusione. Sembra inevitabile e in un certo senso lo è, perché solo vivendo secondo le leggi di questo mondo, esso non è possibile per una persona di venire al conseguimento della totalità tanto desiderata, o sarà un modo lungo e inutilmente doloroso. E quando un essere umano è in questo aspetto, vede solo un frammento di tutta la realtà e non l'intero quadro. Quando il mondo fu creato, ci fu data un'istruzione. E naturalmente era data a tutta l'umanità l'istruzione, ma l'abbiamo dimenticato. Ce n'è solo uno abbonamento a senso unico che porta alla realizzazione. C'è un abbonamento, un modo che porta a compimento. Così tutti coloro che leggono questo libro e in più possono iniziare a lavorare con ciò che legge, sentirai la strada giusta. Sarà mostrato il modo in cui passo dopo passo lo porterà a compimento e lo conduce alla totalità. E quando ti affezionerai e vorrai saperne di più, non esitare, puoi sempre contattarci e potrebbe iniziare a imparare con uno che sta camminando allo stesso modo. Per favore, nota che questo libro è una sottoscrizione dalla parola parlata. Qualche volta è inevitabile fare errori grammaticali, ma ricorda, è così com'è, la cosa più importante è ottenere il feeling con quanto è stato detto. Questo libro è per tutti coloro che hanno l'interesse ed il sentimento di una domanda profonda dentro di lui per lo spirituale. Sono state date queste lezioni del corso Base della Kabbalah durante il periodo 2004 e 2005 ad Amsterdam. Queste lezioni sono state registrate da me. E nella nostra intenzione di rendere disponibili sempre più lezioni nel testo e di presentare a questo libro. Questo ebook è per loro che sono interessati e di dare a loro qualche impressione da questa prima parte nella nostra educazione alla Kabbalah Luriani. Io sono Rabbi Michael Ben Pesach Portnar. Lezione prima. Finora non c'era bisogno di registrare le lezioni. Gli ultimi 3 mesi devono essere visti come un riscaldamento, una sorta di preparazione per come dare la Kabbalah. La Kabbalah o Kabbalah, come vuoi. Quando una persona inizia con la Kabbalah, è pieno di orgoglio. Dall'esterno può sembrare un ottimo e sociale persona, ma dall'interno è un pezzo di desiderio solo per se stesso. Sebbene lui possa avere il punto nel cuore, nel senso che c'è qualcosa in lui che lo spinge in avanti, più alto. È stato rotto durante i primi 3 mesi. Un sacco di persone hanno iniziato il corso e alcuni di loro ci hanno lasciato per qualsiasi motivo. Per quelli che hanno un gruppo in un'altra città può riunirsi il giorno dopo o quando hanno tempo. E forse dopo avremo anche una macchina fotografica. E può essere più avanti che possiamo avere trasmissioni in diretta. Così la gente può ascoltare e seguire direttamente le nostre lezioni dal vivo. Ma questo è per il futuro. Ora stiamo lavorando su un nuovo sito e questo sito sarà piuttosto diverso da tutti gli altri siti riguardanti la Kabbalah. Stiamo lavorando solo con un piccolo gruppo di persone, a volte fino a tarda notte, con forze limitate, ma ci riusciremo. Se una persona riceve un pagamento per quello che sta facendo direttamente, chiude, direttamente chiude il suo cuore. Il suo cuore chiude le sue porte direttamente. Questo succede. Ho visto questo accadere un paio di volte. È la mia esperienza che questo è ciò che accade. Quando una persona fa qualcosa per i soldi, il suo cuore diventa più freddo e lui vuole fare le cose tutto da solo. Poi vedo una persona fare calcoli, ma vedo anche che ci sono persone che fanno nel tempo libero per la Kabbalah, aiutano a correzione, traduzione, eccetera. E per questo lavoro ricevono la ricompensa più alta. Una ricompensa rimane solo quando una persona fa qualcosa senza l'aspettativa di ricevere una ricompensa, o quando dice: il lavoro è la mia ricompensa. In altre parole, il fare è la ricompensa. E questo è il sogno del Creatore, che l'umanità farà qualcosa senza il desiderio di ricevere qualcosa in cambio. Non per se stesso o per il mondo a venire. Questo lo porterà in paradiso quando non c'è nemmeno un'aspettativa per il suo lavoro. È lo stesso per l'onore, o quando dice: guarda quanto sono bravo nel mio cuore. Si sta onorando. O quando sta facendo qualcosa gratis: guardami quanto sono bravo. Sembra buono, ma con questo non puoi raggiungere il Creatore. C'è una legge nello spirituale e di conseguenza nel universo che dice: dal alto verrà dato solo ciò che è strettamente necessario. Lo ripeto, dal alto verrà dato solo ciò che è strettamente necessario. Cosa significa questo? Significa quando una persona ha l'aspettativa, per esempio: ora faccio qualcosa, così più tardi sarò un bravo insegnante di Kabbalah. Un buon pensiero, ma non lo è. Ed è buono per il principiante. Perché non si può fare nulla in questo mondo senza chiedere una ricompensa. Non può fare altrimenti perché questo è nella natura. Noi impareremo di più su questo più tardi. Lui fa le cose dall'esterno, può essere senza desiderare una ricompensa, ma nel profondo c'è una traccia di intenzione per il proprio interesse. In ognuno di noi c'è una traccia di egoismo. Questo è dentro ognuno di noi, senza qualsiasi eccezione. Perché ci manca la purezza. Ma tutti ci sforziamo di raggiungere questo scopo. Questa è una decisione che viene dall'alto. Dall'alto riceviamo i punti di forza e questi punti di forza sono divise per cui una persona che fa questo con l'interesse egoistico e niente viene dall'alto. Quello che lui o lei riceve è ciò che ha desiderato. Così, quando una persona dice: voglio essere un insegnante di Kabbalah, do molti sacrifici da parte mia. Smetto di andare al pub, eccetera. E quando diventerò un insegnante, e poi quando inizio a dare lezioni, guadagnerò un sacco di soldi. Cosa c'è di sbagliato in questo? Niente. È sbagliato in questo, ma è tutto per il proprio interesse. Non pensare che ci possa essere più in là un insegnante professionista nella Kabbalah. Nessuno può essere un insegnante professionista nella Kabbalah. È per una persona che dice: voglio farlo non per me stesso, ma per il Creatore. A lui non importa. In un certo modo sta lavorando gratis. Ma molti di noi dicono: devo guadagnarmi da vivere. Non sarà un problema se tu chiedi solo quello che è strettamente necessario per la tua vita. E inoltre riceverai dall'alto la vera, reale benedizione, l'alta libertà di forza, la forza che ti libera dal tuo egoismo, quello che ti trattiene dalla vera realtà. Non stiamo vivendo nella vera realtà. Ovviamente il nostro quotidiano, la vita è realtà. Ma non possiamo vedere come è fatto il mondo e come funziona il mondo. In un modo in cui viviamo in questo mondo con gli occhi chiusi. Siamo tutti ciechi, tutti. E la Kabbalah è lì per noi, per aprire i nostri occhi interiori e e non le occhi fisici? Ma come un risultato del lavoro la nostra vista fisica migliorerà. Ma la Kabbalah apre i nostri veri occhi interiori nel senso che ci mostra le vere relazioni all'interno di una persona. Vedi in questo modo il mondo materiale riveste tutti i suoi punti di forza, ad esempio, con una nuova auto e risparmia, diciamo, 10 anni e prega e alla fine ottiene quello che vuole. C'è un periodico quote e questo periodico ci racconta sulle 500 persone più ricche dei Paesi Bassi. Questa è anche la Kabbalah. Questa è la vita. Qualcuno scrive delle aspettative e dice: quando ho guardato il mio conto in banca, ho visto centinaia di milioni di euro. E in quel momento era come se tutti i cieli fossero stati aperti per me. Cosa sono questi cieli? In effetti è stato aperto il suo cielo, il suo cielo. Egli era stato sincero, come lui poteva essere, perché per lui il suo cielo si aprì attraverso le domande che lui aveva chiesto. Ma quando ti coinvolgi con il vero spirituale, noterai che i tuoi cieli sono molto più in alto del paradiso di quest'uomo che aveva 100 milioni di euro sul suo conto. Stiamo parlando di cieli diversi. Noi parliamo del vero paradiso. Il paradiso era se uno riceve la vita nel suo cuore dalla sorgente. Sentirà che c'è una forza dentro di lui, una forza che sta solleticando dentro di lui e lentamente riceve la certezza che c'è qualcosa, una forza che lo aiuterà sempre, una forza sempre pronta ad aiutare lui, e per di più questa forza aprirà sempre più alti cieli per lui. Questi sono i cieli spirituali, e da lì c'è un flusso senza fine del dare. Essi ci danno 100 milioni e forse anche il doppio, ma tutto in relazione con lo spirituale. Potete immaginare di che cosa si tratta questi piaceri spirituali. Quando impari la Kabbalah accadrà. A volte 20 volte al giorno, che il tuo account nel mondo spirituale sta crescendo e crescendo. Ma quando dici questo è tutto perché sei soddisfatto, si ha una sensazione di soddisfazione e si dà questa sensazione di splendore direttamente agli altri. Allora c'è poi il pericolo di diventare un attore, che diviene un particolare ruolo nella tua vita. Sai, un essere umano deve essere molto attento e riservato con i suoi guadagni spirituali. Il risultato dei tuoi piaceri è poi diverso. Ogni piacere, come nell'esempio il sogno dei 100 milioni di euro, che cosa succede quando ha questa somma? Il giorno dopo avrà una sbornia di 100 milioni. Sai, in un modo in cui questi 100 milioni di euro non hanno più il suo interesse. L'effetto del piacere sarà ben diverso. Ogni esperienza di piacere, come nell'esempio con i 100 milioni di euro, è un sogno a lungo tanto desiderato, ed ora che lui ha realizzato questo sogno, cosa dopo? Il giorno dopo ha una sbornia di 100 milioni. Questi 100 milioni per lui non hanno più interesse. Viviamo qui in questo mondo materiale e qui è con ogni stesso piacere, noi possiamo sperimentare solo il piacere più basso. Lo chiamiamo con il nome del piacere animale, come il cibo, le bevande e il sesso. E c'è anche un più alto, lottare per il piacere, quello che noi chiamiamo la lotta per la ricchezza. Questo è uno sforzo che è molto relativo, perché questo può essere diverso per ogni persona. E poi abbiamo un più alto desiderio di potere, onore, eccetera. E tutti i nostri desideri culminano nel più alto desiderio, la scienza. Ma qualunque cosa tu voglia, tutti loro appartengono alla nostra vita terrena. Ma ci sono alcuni desideri nel cuore che non possono essere soddisfatti nemmeno con centinaia di milioni di euro. Una persona che viene nella Kabbalah sceglie una vita che gli darà un adempimento eterno. E se vuoi una realizzazione eterna, tu devi lavorare per esso. Prima c'è bisogno di una limitazione temporanea. Perché? Perché il creatore vuole che riceviamo, ma non sappiamo come ricevere. La parola Kabbalah deriva dalla parola ricezione. La Kabbalah è l'insegnamento di come ricevere, è niente di più. Come posso ricevere in un modo che non avrò una sbornia dopo? Quando hai ricevuto il desiderio, sarà seguito da una sbornia o un punto di soddisfazione. Hai avuto una cena meravigliosa e ti senti soddisfatto. Questa sensazione non è differente dalle altre cose, come ricchezza e potere. È scritto su Napoleone, che aveva detto di aver ricevuto il potere supremo. Tutto il mondo era sotto il suo potere. E che aveva ricevuto questo dall'alto, intendendo il Creatore. Nota che tutti i grandi uomini del potere sono come pupazzi su una corda e dall'alto hanno l'ordine di regnare qui sulla terra. Anche Napoleone si era sentito soddisfatto durante 5 o 6 giorni. E c'erano giorni di cui andava al parco con la sua amata perché era sopra molti livelli di tutti i suoi generali. Quando una persona ha ricevuto il potere, non otterrà la vera soddisfazione né colui che lavora nella scienza. Per coloro che lavorano nella scienza, che pensano di avere l'obiettivo finale nella vita, arriva alla stessa illusione. Perché è impossibile avere la conoscenza ultima e nel modo che sa, quando muore, arriverà qualcun altro che va oltre il punto che aveva raggiunto. Non è la sua conoscenza ultima. Nei periodi precedenti hai visto grandi filosofi e anche loro pensavano di aver raggiunto la cima della collina. Per esempio Hegel, un grande filosofo tedesco. Lui pensava di avere un grande intelletto. E nonostante anche loro verranno disillusi. Perché l'intelletto del creatore è ben oltre. È un intelletto eterno, così grande che non possiamo mai raggiungere la sua fine. Non può dare a un essere umano la massima soddisfazione. Quello che abbiamo è limitato, è transitorio, mentre quando una persona si tiene impegnato in un modo vero e onesto con lo spirituale, si produrranno delle meraviglie. Non i miracoli a cui pensi, ma qualcosa succederà nel profondo di te. In un certo momento vedrà e sentirà una certezza nel profondo e lo collegherà questo in finale con l'intelletto del creatore. Non capisce di cosa si tratta, ma si pone come un embrione nel grembo materno. Questo è l'atteggiamento che deve avere una persona per deporre la sua vita nelle mani del superiore. Ma qual è il superiore? È dentro di me. In un certo senso, ciò che devi fare è deporre te stesso nelle mani della mente superiore e attraverso questo riceverai dal alto, proprio come l'embrione riceve da sua madre. Ciò che la madre mangia, l'embrione mangerà lo stesso. E questo è ciò che dobbiamo fare con ogni desiderio di poggiare te stesso nelle mani del superiore in modo incondizionato. Ho un vicino che ogni fine settimana va a una festa e mi ha detto: lunedì ho un appuntamento con lo psicologo. Ma perché? Ha bisogno di lui per riportarlo nella vita pratica quotidiana. Ma quando è il fine settimana, va alla festa. Nel profondo, una persona sa, tutti sanno, che non sarà possibile ottenere l'adempimento qui, sulla terra, nei suoi desideri terreni. È scritto nel Talmud e anche nella Torah. Un uomo muore senza nemmeno l'appagamento della metà dei suoi desideri. Quando morirai, non ci sarà la domanda di quanto hai avuto qui sulla terra, né all'operaio, né al milionario. Entrambi giungono alla stessa conclusione. Non ha ricevuto nemmeno la metà di tutti i suoi soldi o cibo o qualunque cosa terrena avesse desiderato. Mentre una persona che inizia a venire in contatto con lo spirituale, riceve ogni giorno. Ogni giorno riceve una parte di un piacere infinito. Attraverso cosa? Perché questa persona dà, e con il suo interiore si pone nelle mani del Creatore e accetta ciò che viene da Lui. Nei miei primi tempi avevo anche tutti i desideri che un grande uomo d'affari avrebbe potuto avere. Sono stato anche io là ed ero profondamente coinvolto. Ma una persona non deve solo cercare la ricchezza o altre cose, deve anche sentirlo. Cosa significa porre tutti i peccati su di te? In ebraico diciamo Noseavon. Significa portare i peccati. Portare significa che una persona deve sperimentarlo tutto da solo e gestirlo da solo. Non ho bisogno dei 100 milioni di euro per risvegliare il sentimento in me per la ricchezza. Per essere ricchi posso risvegliare la sensazione e in un certo senso portare la sensazione di ricchezza. E lo stesso con tutti i piaceri della nostra vita. Non è necessario l'intero quadro per venire in spirituale. Ma in un modo ci deve essere il bisogno di tutti i desideri. Perché? Perché è umano, è nella nostra natura umana, in un modo semplice che una persona deve farne parte. Qualunque siano i tuoi desideri, il desiderio di cibo, bevande e sesso e di avere una vita familiare, è lì. È nella nostra natura. Una persona è nella nostra natura, una persona non può dire: ok, mi fermo con questo. Una limitazione è diversa e deve essere lì prima che tu possa venire e coinvolgerti con lo spirituale. Ma non c'è bisogno di passare attraverso tutte le fasi di ricchezza e del potere e poi venire allo spirituale. Ma questi desideri devono essere lì, dentro di te. Ma perché? Perché allora fai in modo che il tuo ego sia idoneo, adatto e diventi il più alto possibile. Così alla fine puoi prendere una decisione nel cuore. O arriva una profonda intuizione. Ora puoi dire: Sono pronto a lasciare tutto dietro e mi tengo occupato con lo spirituale. Quando trascriviamo questo ad una persona che vuole imparare la Kabbalah, se è uno studente o un fornaio, spetta a lui quali sono le sue scelte. È sbagliato dire: ora mi tengo impegnato con la spirituale al 100%. Si deve mangiare e bere. Devi tenerti impegnato con i corsi giornalieri. In passato questo era ossessionante. Lavorando sulla terra, al giorno d'oggi è tua moglie, marito, una macchina, è una vacanza. Ma quando ti tieni occupato solo con ciò di cui hai strettamente bisogno, andrai più veloce in avanti nello spirituale. Ma quando sei ancora concentrato sui desideri di questo mondo e investi troppa energia in questi desideri di cibo, bevande e altre cose, andrà a spese del tuo sviluppo spirituale. Puoi dire: qual è il beneficio dello sviluppo spirituale? Voglio diventare più ricco. È sbagliato? Devo fuggire in un monastero? No. Non se lavori con il tuo intelletto e con la tua capacità, dato a te dalla natura, e lavori 8 ore al giorno. Quando devi lavorare 8 ore al giorno per guadagnare 1 milione di euro all'anno, significa che questo è quello che devi fare. Questo è ciò che ti viene dato per te. Tu non investi 24 ore al giorno, ma lavori solo 8 con tutte le capacità che hai dentro di te. E un'altra persona deve lavorare 12 ore al giorno per guadagnare 2.000 euro al mese. Questo è ciò che deve fare e ciò che lì è stato dato. Ricorda che è sempre individuale ed è lo stesso con tutti gli altri desideri di una persona. Una persona lo chiarisce da se stesso o pensa che lo stabilisce da sé. In realtà, tutto è governato dall'alto. Pensa che sia il suo desiderio, ma tutti i desideri e pensieri sono sussurrati nelle nostre orecchie dall'alto. In altre parole, è guidato, ma è il desiderio del Creatore per farci sentire diversamente, che abbiamo la sensazione di non essere marionette su una corda. Egli ci guida in modo tale che pensiamo che tutto ciò che stiamo facendo è di nostra scelta. E in un certo senso è. È un mio desiderio perché altrimenti non ci dovrebbe essere la libertà della mia volontà. Ma quando una persona si tiene occupata con la Kabbalah, lentamente c'è un cambiamento in lui o lei. Ci sono persone che vengono alla Kabbalah solo per 3 lezioni, altre per 3 mesi, finché non ha raggiunto nella sua opinione il compimento di ciò di cui aveva bisogno, e poi torna nel nostro mondo, ai desideri del mondo materiale, fino a quando arriva il momento di nuovo di sentire il bisogno di tornare alla Kabbalah. È scritto nella Kabbalah che ogni persona riceve una possibilità 2 o 3 volte nella sua vita per occuparsi dello spirituale. Ma possiamo dire che non ha avuto la possibilità di avere una mancanza? Vedi, è per te sapere che lo spirituale non è qualcosa che una persona può scegliere. È una forza primordiale che sveglia questo desiderio. Era stato predestinato nel libro dello Zohar che questa generazione sentirebbe questa sensazione. Cioè, in ogni persona che vive in questo momento, in questo mondo, è possibile che si svegli per lo spirituale. In un certo senso, è l'obiettivo di ogni persona. Ogni persona deve venire a questo adempimento. Ogni persona si sentirà, in un modo o un altro, il desiderio di venire allo spirituale. Ovviamente i desideri inferiori animali ci sono per usarli. È una parte della nostra esistenza. Ma oltre a questo, o in seguito, puoi occuparti di te con lo spirituale? Perché? Perché è lo scopo della nostra esistenza creato nella creazione del mondo? Non è la persona stessa che sceglie, anche se potrebbe sembrare così. Ogni persona arriverà alla sua perfetta realizzazione in cui tutti i punti di forza dato a lui dal Creatore arriverà ad uno sviluppo completo. Naturalmente non possiamo vedere questo subito, che non vediamo le differenze, ma in seguito, passo dopo passo, vedremo le differenze ognuno di noi. E quando si dice No, non è. Allora ti comporti come un bambino. Possiamo dire a un bambino fai questo, fai quello. No, un bambino vuole giocare, giocare con i suoi giocattoli. E possiamo biasimarlo? È lo stesso. Per una persona adulta. Sta ancora giocando nella cosiddetta realtà immaginaria. Vive secondo questa realtà immaginaria, ma non c'è scampo. Quindi, prima arrivi, più velocemente e meglio è. Ed è possibile, che ci sia una domanda dentro di te, se ognuno verrà alla sua interezza. Perché dovremmo imparare la Kabbalah? Vedi, la Kabbalah è lì per darci un modo per raggiungere il traguardo il più presto possibile.